passare al bar prima di tornare a casa, a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qua, gentili ascoltatori, alle 18:40, 800 24 00 24 è il numero di telefono per le vostre telefonate, anche oggi in diretta il 2 giugno fino alle 20:45 per commentare insieme i fatti del giorno. SMS 349-238-6666, la zanzara è radio24.it per le vostre mail TG2. 2 giugno, festa della Repubblica, omaggio di Napolitano al milite ignoto, poi la tradizionale parata ai fori imperiali che è costata 1 milione di euro in meno, andrà ai terremotati. Berlusconi tra la folla della parata del 2 giugno dice non mollo, sono solo all'inizio, pronto appunto a fare del PDL il primo gruppo all'interno del Partito Popolare Europeo. Avvistati i resti di un aereo nelle acque dell'Atlantico, dovrebbero essere quelli dell'Airbus francese disperso, ma la scatola nera potrebbe essere a 3-4 mila metri di profondità, pochi indizi, tanti misteri. Dimissioni imminenti per la ministra degli interni britannica Jackie Smith, il marito è al centro di uno scandalo, aveva chiesto il rimborso del noleggio di 2 film pornografici. Dopo 2 anni di studio sull'Amazzonia, Greenpeace pubblica un rapporto sull'ultimo grande polmone della Terra, il titolo è molto esplicito, Amazzonia, che macello. Bene, erano i titoli del TG2. Un ascoltatore mi scrive: Ignazio La Russa fa campagna elettorale usando voli di Stato a sua disposizione come ministro. Mariano Picella viaggia su voli di Stato. Quali sono le leggi che regolano l'utilizzo dei voli di Stato? Esistono norme che ne dispongono l'utilizzo per spostamenti privati? Quanto si è speso per voli di Stato nell'ultimo anno? Dov'è l'elenco di chi ha viaggiato su questi aerei? Alessandro Valguarnera. Ho timore però che queste informazioni non sia facile ottenerle. Ci abbiamo provato ieri con Sergio Rizzo, al di là di dati generali che vengono diffusi anni dopo sulla quantità di voli e sulle spese generali, non è facile, forse non è nemmeno giusto conoscere tutti quelli che vanno sui voli di Stato per motivi di sicurezza. Studio aperto. Un sedile, frammenti metallici, chiazze di carburante, ecco quanto rimane del volo Air France scomparso in mezzo all'Atlantico, trovati i resti al largo delle coste brasiliane. La Francia ammette, non si può escludere l'attentato, il dolore delle famiglie, le 10 vittime italiane venivano da Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia. Dopo il ponte bagnato, la beffa del controesodo, 3 giorni di nuvole e pioggia e ora sotto il sole si torna in città, ancora maltempo al centro-sud, allagamenti e frane nelle Marche e in Campania, traffico in aumento, la situazione in diretta. Festa del 2 giugno e migliaia alla parata di Roma, sfilata in versione ridotta per devolvere i fondi agli sfollati d'Abruzzo. Rush finale per la campagna elettorale. Franceschini torna a criticare la gestione della crisi, bagno di folla. Firenze per il premier Berlusconi. Abbiamo affrontato tante sfide, dice, il nostro è un governo dei... Bene, bagno di folla non lo so, perché in realtà Berlusconi era all'interno di una sala, ma i titoli di Studio Aperto spesso sono enfatici da questo punto di vista. 800 24 00 24. A proposito di voli di Stato e delle polemiche che riguardano i voli che hanno portato Mariana Picella e altri in Sardegna, tra cui una ballerina di flamenco, in realtà la domanda da porre è questa: la legge può anche autorizzare naturalmente questi voli, c'è stato un cambiamento nell'ultimo anno da parte del governo che ha un po' allentato la presa, ne parlavamo ieri con Sergio Rizzo. È opportuno o no che su un aereo di Stato, insieme al Presidente del Consiglio naturalmente, oppure a un Ministro, salgano anche personaggi vari, cantanti, attori, insomma amici, a prescindere dal fatto che siano cantanti? È opportuno oppure no? Dalle sedi istituzionali si risponde che non cambia nulla, cioè non cambiano i costi di questi voli, cioè l'aereo partirebbe lo stesso, deve partire lo stesso, e dunque che ci siano 1, 10, 20 ospiti fa lo stesso. Resta però secondo me la domanda: è opportuno o no che sull'aereo salgano queste persone? Una polemica, non dico che travolse, perché i motivi dell'abbandono di Mastella furono altri, però coinvolse certamente il ministro della giustizia Mastella. 2 anni fa fu sottoposto a domande, trasmissioni televisive che lo tempestavano, inchieste. Sentiamolo a Ballarò. È diventato più famoso il mio volo che quello di Icaro. è sembrato che, come dire, non ci fossero stati altri voli in Italia se non il mio. Scusi, Icaro puntava al sole, lei andava a vedere la Formula 1. No, le spiego però, le spiego. Icaro. No. Calmatevi un attimo, prima applaudire come quelli che aspettano le cose per quelle che gli sono messe davanti. È nato il 15 agosto di quest'anno, molto prima della Formula 1. C'è una nota in cui il capo della polizia dice che i destinatari i voli riservati per esigenze di sicurezza sono il ministro dell'interno e il ministro della giustizia, gli unici due. Non ho scelto io, ne scelgo io di fare questa vita. In 30 anni di vita parlamentare, ho preso i voli di Stato. Allora, questo era Mastella che cercava di difendersi e, insomma, c'è un curioso scambio di ruoli. Mastella oggi è candidato del Popolo della Libertà e all'epoca venne attaccato duramente, sempre in quella trasmissione che era Ballarò, come avete sentito, per esempio da Maurizio Belpietro. Ma vede, sentendo Mastella mi fa persino tenerezza. Anzi, perché vedere un politico in una situazione del genere, confesso che mi suscita una riflessione, cioè vuol dire che la politica non capisce quello che sta succedendo. Caro Ministro, il problema vero è che voi non dovete rispondere no, ma io avevo diritto a questo e a quell'altro. Dovete rispondere nel merito. E ciò che avete fatto anche recentemente, ciò che ha fatto la maggioranza quando ha deciso di leggermente contenere le spese è largamente insufficiente a rispondere all'esigenza di contenimento. Allora, come cambia la situazione? In due anni con Mastella, ripeto, candidato adesso del PDL. Tra l'altro, pochi mesi fa è arrivata la notizia che Rutelli e Mastella al Gran Premio con il voto di Stato per il PM non ci fu reato. Veniamo a Firenze con Giovanni, che mi ha fatto lunghe telefonate al riguardo, è venuto a trovarmi, eccetera. Io avevo preso un impegno e, siccome sono uno che mantiene le promesse, anche quando prometto di andare a una festa di compleanno. Questo è Berlusconi che, come avete sentito, ha cambiato da un po' di giorni strategia e sulla questione delle feste di compleanno delle minorenni, eccetera, eccetera, usa molto l'ironia. 800 24 00 24. Questa sera, durante la trasmissione Iceberg condotta da David Parenzo, che saluto e ringrazio, ciao David. Ciao, buonasera. Ci saranno alcune rivelazioni fatte anche da Lara Comi, che è una candidata del PDL alle elezioni europee, oggi è già sui giornali. A proposito dell'intervista di Daniela Santanchè l'altro giorno a Libero, anche la Santanchè sarà ospite di Iceberg, la trasmissione è stata registrata visto che oggi è il 2 giugno. Raccontaci un po' che succede. Beh, intanto, guarda, devo confessarmi subito, ho peccato perché hai invitato la Santanchè. Sì, ma no, non solo, ho peccato ai miei principi, che mi ero riproposto di non ficcare il naso tra le lenzuola del Presidente del Consiglio. E invece purtroppo sono venuto meno a questo principio sacrosanto al quale mi ero, come dire, imposto nel corso di tutte le mie trasmissioni. Mi ero occupato sì del caso Noemi, ma non del caso divorzio Berlusconi signora Veronica, e poi invece ieri mi sono trovato in questa situazione e ci ho affondato anch'io il naso, quindi ho sbagliato. Chiedo pubblica ammenda dalla tua trasmissione perché ho sbagliato. Però, tu questo perché? No, ho sbagliato nel senso che io in genere voglio occuparmi di politica e non di gossip o di lenzuola. Voglio occuparmi di lenzuola quando hanno un risvolto politico. Quindi il caso Noemi poteva avere un risvolto politico. Il caso Veline candidate può avere, anzi ha, un risvolto politico. Il caso divorzio signora Alario, con che sarebbe fidanzata da 3 anni con la guardia del corpo, questo non ha alcun risvolto politico, se non un risvolto, come dire, giudiziario per via del divorzio. Per cui, se è vero che la signora da 3 anni sta con un altro, cambia la condizione processuale del divorzio sia di Berlusconi sia della signora. Però Mario, devo dirti, no? Davide, che secondo me ormai tutte queste vicende hanno un risvolto politico, dunque so che usai... Sì, non il divorzio, secondo me no. Ecco, invece il fatto delle veline candidate, quello sì avevo risposto. Sì, no, certo. Ma i due, una coppia che si separa, anche se è una coppia presidenziale, io diciamo in genere mi leggo moltissimo le riviste di gossip, Candida Morvillo e quant'altro, che infatti ieri ha detto giustamente, ormai devo occuparmi io di politica perché i giornali si occupano di gossip. Però in realtà questa vicenda, adesso andiamo però a quello che succede, sì, questa sera, questa vicenda però è diventata anche una guerra tra media e tra giornali, perché molti certo. attribuiscono per esempio alla Santanchè una sorta di, e a Libero che ha fatto l'intervista, e magari adesso anche a te, una sorta di intento di sputtanamento nei confronti di Veronica Lario. Questo a me sembra un non po'... Non c'è dubbio, esatto. Infatti è proprio questo l'aspetto che mi ha incuriosito, cioè questa guerra di giornali, sì. non guerra di, che sembra una guerra tra procure, ma in verità è una guerra proprio tra giornali, per cui D'Avanzo fa una bella inchiesta sulla Repubblica dove sbugiarda tutta una serie di situazioni interessanti riguardo al caso Noemi e Libero risponde con ah, ma anche la signora metteva le cose. Però quelli di Repubblica si sentono il bene e dall'altra parte c'è tutto il male. Esatto, e c'è poi anche questo aspetto appunto messianico di questi due giornali. Ecco, tolto questo, che forse è l'aspetto più interessante della vicenda, io avendo la signora, la giovane Comi e la giovane signora Santanchè in studio, a un certo punto ho chiesto, ma lei Comi, visto che è stata scelta da Berlusconi, che Berlusconi l'ha voluta direttamente in lista, ha lottato per averla in lista rispetto ai parrucconi della PDL, e lei mi dice sì sì certo ha lottato molto per avermi in lista, dico, ma lei sapeva, visto che è molto vicina a Berlusconi, della storia di Veronica. E le metto, sì, certo che lo sapevo, lo sapevamo in molti tra le persone che gli stanno vicino, ma non voglio commentare perché è una vicenda privata del Presidente. Ecco, tu da osservatore, giornalista, eccetera, pensi davvero che ci sia dietro una manovra per lo pensa per esempio Gad Lerner, una manovra per un po' per screditare Veronica Lario, lo pensi davvero? No, ma adesso io a queste manovre, adesso scrivono, hanno scritto libri sull'11 settembre, le Torri Gemelle, hanno scritto delle puttanate meravigliose su quella vicenda dell'11 settembre, dicendo addirittura sono stati gli ebrei dentro le torri, sapete, insomma la letteratura del, come dire, del complotto funziona sempre ed è, sono pure vaccate nel 99% dei casi. Qui, voglio dire, semplicemente è stata un'opera giornalistica, sì, di risposta a Repubblica, ma non vedo un complotto. Forse c'è un timing nel momento in cui è uscita, ma il complotto che addirittura, anche perché voglio dire, questa povera guardia del corpo che viene addirittura identificata col cerchietto, come se avesse commesso qualcosa di, nel mirino, no? Pensate al paradosso, la guardia del corpo viene fotografata sì, e messa nel mirino sui giornali. No, no, incredibile, veramente incredibile. Ecco, però, adesso volendo fare anche noi un po' di dietrologia, io non ho visto queste grandi, cioè la cosa che ha detto la Santanchè, che credo ripeta poi questa sera, no? Nella tua trasmissione, immagino, sì, senza non problemi. Non sono stata eterodiretta, ho deciso da sola di farlo per difendere Berlusconi. Io l'ho chiamato il lodo Santanchè. Io credo che non ci sia. È una cosa talmente grave, cioè quello di dire a qualcun altro hai un amante o hai qualcuno, però sei sposata, perché quello ha detto la Santanchè, che non ho visto queste. Magari ci saranno nei prossimi giorni delle querele, eccetera, eccetera. Non ho visto queste reazioni così forti da parte anche della stessa Guardia del Corpo. Sì, la Guardia del Corpo che ha detto. Sì, no, non è vero, sono sorpreso, insomma un po' smentito. L'Alario fino adesso silenzio, non ho visto queste reazioni, te lo sei chiesto? Anche lui, infatti non si tirano in ballo, veramente è una cosa piuttosto indecente. Adesso noi ci abbiamo sorriso, ma indubbiamente è da riflettersi. Anche la Guardia del Corpo, andiamo a vedere la storia di questa persona. Questo è sposato con i figli, pare sia pure di Comunione e Liberazione, cioè immaginatevi anche la famiglia di questa persona che viene improvvisamente tirata in ballo. Magari anche lui dice, beh aspetta, non è che mando una smentita ai giornali, prima parlo con la mia famiglia, cerco di capire come stanno, di spiegare come stanno davvero le cose e poi sistemo la bolla mediatica. Poi se è una persona che davvero sta molto vicino alla signora Lario, anche lì non è che può parlare così liberamente, magari anche lì appunto ci sono degli equilibri, delle cose da gestire, però indubbiamente è una riflessione da fare dove siamo arrivati, anch'io, ti dicevo, dove sono arrivato anch'io ormai. E perché l'hai fatto? Perché hai deciso di farlo allora? Io ero incuriosito dalla questione, dalla vicenda Santanchè. Proprio infatti, sì. La trasmissione di questa sera ho invitato Oliviero Bea che mi aiuta. Ho fatto un parterre di sole donne questa sera. Sì. Quindi ho messo il titolo iniziale era È la politica, virgola, bellezza. E quindi ho messo tutte le belle donne che fanno politica. E il tema, i nuovi volti, quindi c'è la Comi, sì. C'è la Marilyn Fusco, quella che fa tutta la campagna su YouTube di Di Pietro, c'è questa rom bravissima, Diana Pavlovic, l'attrice rom candidata con Rifondazione Comunista, la Comi e Santanchè, quindi quattro donne e Oliviero Bea. E volevamo raccontare appunto il ruolo della donna in politica e la vicenda delle veline fatta solo con l'ausilio di quattro donne che in vario modo da un po' di tempo fanno politica, perché anche la Comi da 7 anni, è molto giovane, ma da 7 anni fa politica, sì, è una velina. Sì, sì. E quindi lo spirito della trasmissione era questo. Poi, avendo lì la Santanché, sono scivolato anch'io. Sono scivolato e la domanda è scappata. E poi da lì il resto della trasmissione è un po' come la scoperta dell'America. Il mondo non è stato più quello. Dopo l'11 settembre il mondo non è più quello. E quindi anche la trasmissione dalle 21.30 in poi non è stata più quella. È un'altra trasmissione. Grazie a Davide Parenzo. No, buona serata. 18.56 e 30, 800 24 00 24. Dalla parola di Davide Parenzo viene fuori come sia inevitabile in alcuni casi, quasi controvoglia, parlare di alcuni argomenti. I titoli del TG3. Avvistati nell'Atlantico i primi resti dell'Airbus francese precipitato, nessuna traccia di sopravvissuti, ancora mistero sul disastro. La festa del 2 giugno, parata in forma ridotta, i risparmi ai terremotati, richiamo di Napolitano alla coesione nazionale e ai valori della Costituzione. Berlusconi risponde agli attacchi della stampa estera, non mollo, sono solo all'inizio, poi sulla sicurezza, estendere l'uso dei militari in città. Franceschini, il premier, vive in un bunker di lusso, noi rappresentiamo un'Italia diversa, non servono annunci ma misure vere contro la crisi. Si dimette il ministro degli interni britannico, è la prima vittima eccellente dello scandalo dei rimborsi gonfiati ai politici inglesi. Sono dell'operaio scomparso i resti trovati nella cava in Valtellina, il titolare amico della vittima fermato con l'accusa di omicidio. Giallo a Bologna, sequestrato da tre persone incappucciate un agente di borsa in pensione, l'uomo caricato a forza su un'automobile. A Venezia il primo museo dinamico progettato da Renzo Piano, dove i quadri volano incontro al visitatore, è dedicato al pittore Emilio Vedova. Allora, andiamo a sentire anche i titoli di Sky. Aereo scomparso, localizzati rottami nell'Atlantico a nord del Brasile. Ancora mistero sulle cause della sciagura, la Francia esclude l'ipotesi di un attentato. Festa della Repubblica, parata in tono minore, risparmiato 1 milione di euro. Berlusconi promette presto una riforma della sicurezza, più militari in città. Franceschini lo attacca, il governo non fa nulla per aiutare imprese e famiglie. Soldi pubblici per noleggiare porno, il ministro britannico Smith si è dimesso. Domani Obama vola in Medio Oriente, gelo con Israele sugli insediamenti. Consulente finanziario rapito nel bolognese, indagini serrate sul giro d'affari. Fine di un ponte all'insegna del tempo incerto, traffico sulle strade del rientro. Juve, tutte le strade portano a Spalletti, in settimana la scelta definitiva. Bene, c'è un sondaggio anche su Sky, uno di quei sondaggi che ogni giorno fa Sky TG24. Secondo voi è giusto portare anche amici e parenti a bordo degli aerei di Stato? Naturalmente c'è una valanga di no, 63%, mi aspettavo anzi di più. 800 24 00 24. Prima abbiamo poi ironizzato su un titolo di Studio Aperto che era questo, sentite. Rush finale per la campagna elettorale, Franceschini torna a criticare la gestione della crisi, bagno di folla Firenze per il premier Berlusconi, abbiamo affrontato tante sfide, dice, il nostro è un governo dei fatti. Abbiamo ironizzato sul bagno di folla perché pensavamo si riferisse al comizio, insomma all'intervento di Berlusconi insieme al candidato del PDL Giovanni Galli, che era all'interno di una sala e dunque non ci poteva essere bagno di folla. C'è però un'agenzia ANSA dunque, non un'agenzia della famiglia Berlusconi, che ha questo titolo: bagno di folle e applausi per Silvio Berlusconi al suo arrivo al Grand Hotel di Firenze, eccetera eccetera. 800 24 00 24, dove andiamo a parare? Andiamo a sentire questa notizia che viene dalla Gran Bretagna, sicuramente succosa soprattutto per i paragoni che si possono fare con l'Italia. C'è stato uno scandalo che riguarda i rimborsi spese dei deputati e una testa caduta, quella di un ministro, il ministro Jackie Smith, ministro del governo di Gordon Brown, per alcune note spese che in realtà sono state per errore attribuite al ministro e sono quelle del marito che ha comprato dei film porno a pagamento. Sentite. Lo scandalo dei rimborsi gonfiati o truccati dei parlamentari di Westminster, che si trascina da una ventina di giorni, fa seriamente vacillare il governo laburista di Gordon Brown, atteso a breve da una doppia temutissima prova, prima il voto locale e poi quello europeo. Sta per cadere la prima testa illustre, quella del ministro dell'interno Jackie Smith, che si appresta a dimettersi in previsione del rimpasto che il premier effettuerà. dopo la duplice tornata elettorale. La Smith era stata messa sotto accusa prima ancora della devastante inchiesta del Daily Telegraph, perché si fece rimborsare dallo Stato il costo di due filmini a luci rosse noleggiati dal marito, e poco più tardi si attirò altre pesanti critiche quando si apprese che aveva indicato la sua casa di famiglia nel Worcestershire come seconda casa, mentre viveva con la sorella nell'abitazione londinese, ottenendo così esenzioni e rimborsi. In pericolo lo stesso Alistair Darling, ministro delle finanze numero due del governo, protagonista di un'altra poco edificante vicenda per cui è stato costretto a scusarsi pubblicamente. Va bene, questo servizio del TG2 è due filmini a luci rosse noleggiati dal marito per un totale, leggo, di una settantina di euro, film comprati in pay-per-view, pagati piuttosto caro tra l'altro. Insomma, questa è la situazione, questo accade in Gran Bretagna. Andiamo a sentire che cosa Emilio Fede che prende in giro in questo modo il fotografo della vicenda Berlusconi, il fotografo sardo. Tutta la vicenda la conoscete, gli scatti finiti in mano ai magistrati, se ne è occupato anche il garante della privacy, il blocco delle foto che riguardavano immagini di vita all'interno di Villa Certosa. Così lo, tra virgolette, dileggia Emilio Fede. Un guerrigliero, la parola è fra virgolette, dell'obiettivo, tale Antonello Zuppetta o qualcosa del genere. Il quale Zuppetta, che ha fatto, nonostante Zuppetta abbia pensato di accompagnare le foto dicendo ci sono anche ragazze minorenne in topless. Domanda a Zuppetta: che magia di questo Zuppetta? Zuppetta, si spera, ne risponderà in sede giudiziaria. Dunque c'è un fotografo, Zuppetta, che chiede soldi per foto che nulla hanno di trasgressivo, insinuando che fra quelle presenze femminili, lo ripeto, a Villa Certosa c'erano minorenni, e se anche ci fossero state, innanzitutto qual è il reato? Questo Emilio Fede, Zuppetta, in realtà il fotografo, come molti di voi sanno, si chiama Zuppedu, credo, no? O Zappadu, Zuppetta lo chiama un po', sì, questo Zuppetta, per trattarlo, per un po' scansarlo, per non considerarlo Fede. Com'è che si chiama Zappadu, eh? Zappadu. E non è un errore di dizione da parte di Fede, ma volutamente lo chiama Zuppetta. Non si accorge Fede di essere preso in giro da Gianna Nannini durante una trasmissione che si chiama Password, sempre su Rete 4. Sentite. Cos'è che non ti piace dell'informazione? Cioè adesso sei lì, se tu dovessi... No, l'informazione, quella FT, non lo so, perché la tua fa anche un po' ridere. Però dico, quella che ti passano da dire, cioè, è evidentemente che è filtrata. Noi sappiamo benissimo che le notizie arrivano un po' in ritardo, però vedo che te ci metti uno zampino ironico, perché uno che guarda i tuoi programmi può dire, beh, adesso vado a cercarmela io la verità. Beh, però voglio dire, se anche ti fa sorridere, anche meglio, poi tutto sommato, se pensi al dramma. Beh, insomma, la Nannini ha detto due cose: quella che fai tu fa un po' ridere di informazione, e poi ha detto, beh, uno poi se si deve andare a cercare la verità deve andare altrove, non sul TG4, e Fede si è lasciato scivolare addosso questo insulto pesantissimo alla sua dignità di giornalista. Va bene, questo accade. Maria da Lodi, buonasera Maria. Sì, buonasera. Io volevo intervenire sulla questione legata a Villa Certosa, perché ritengo che il Premier può usare l'ironia che vuole sulle feste di compleanno, caso Noemi, festa di compleanno, però su quanto sta succedendo, è successo a Villa Certosa per quel Capodanno, deve dare delle spiegazioni. In che senso? Che spiegazioni deve dare, secondo te? Deve dare delle spiegazioni, nel senso che una persona qualunque, se fosse il mio vicino di casa, che facesse una festa di compleanno un capodanno con un gruppo di ragazze giovani, per lo più carine, all'età di 73 anni, lo definiremmo un porco. Però visto che è il Presidente del Consiglio, le cose sono molto velate, molto ironizzate, molto leggere. Allora, se è fatta una festa veramente nessuno, veramente la leggerezza e l'ironia la usano in pochi in questa storia. Mia leggerezze vengono usate dal presidente medesimo per far ridere della questione. Non ho capito che cos'è che va chiarito secondo lei di quella festa. Se il presidente del Consiglio ha davvero organizzato una situazione del genere, cioè un capodanno alla presenza di un numeroso, tra cui minorenni, ragazze, dove tutti sappiamo che non si va a parlare di massimi sistemi di economia per il tono e per quello che sta venendo fuori, quel poco che filtra, è chiaro che è un quadro molto particolare. Ora, a me viene in mente una persona che mi ricorda. Non capisco cosa va chiarito secondo lei di quella festa. Berlusconi deve raccontare cosa succedeva a Villa Certosa. Mi scusi. Quello che è successo a Villa Certosa, se c'era lui, se c'erano gli altri uomini presenti che magari hanno detto che erano a parlare a Villa Certosa, visto che c'è il segreto di Stato di crisi economica, e poi si è scoperto, si sta scoprendo qualcosa. Ma che si sta scoprendo qualcosa? Nessuno ha detto che non ci sono testimonianze. Rispondendo di questo, si sta girando su una questione molto più leggera, la gira in maniera leggera, cioè sono andato semplicemente alla festa di compleanno. Cosa va chiarito secondo lei? Mi lo spieghi, io ancora non l'ho capito. Allora, va chiarito se sono state delle orge, mi scusi Maria, va chiarito? Se mi fa rispondere glielo dico. Mi dica. Allora, va chiarito quello che è la posizione di Berlusconi inerente a quell'episodio di Capodanno. Perché? La posizione di Berlusconi inerente all'episodio di Capodanno, ancora non riesco a capire. Del Consiglio. No, ma lo dica chiaramente, secondo lei va spiegato, va detto qua. Quello che è successo, perché se io. Ma se le dicono che hanno mangiato una pizza, hanno ballato e cantato fino alle 2. Ma prendiamo in giro perché. Ecco, lei non vuole una risposta, vuole che le si risponda come vuole lei. Situazione di Villa Certosa non viene presa in maniera. Vabbè, Maria, eccoci qua. Ti piace dell'informazione? Cioè adesso sei lì, se tu dovessi. No, l'informazione quella FT non lo so, perché la tua fa anche un po' ridere. Però dico quella che ti passano da dire, cioè, è evidentemente che è filtrata. Noi sappiamo benissimo che le notizie arrivano un po' in ritardo, però te ci metti uno zampino ironico, perché uno che guarda i tuoi programmi può dire: beh, adesso vado a cercarmela io la verità. Beh, però voglio dire, se anche ti fa sorridere, anche meglio, poi tutto sommato, se pensi al dramma. Due bastonate di Gianna Nannini a Emilio Fede, è certamente l'audio del giorno e lui nemmeno se ne accorge. Alle 19.36 di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24, c'è da registrare oggi anche il ritorno di Beppe Grillo, che dice: ci hanno accusato di essere l'antipolitica, di voler distruggere i partiti. Solo 3 anni fa esistevano i partiti, adesso non c'è più nulla. Ci sono solo 2 comitati d'affari, il PDL e il PD-L. C'è anche l'UDC, l'Unione dei Carcerati. Così definisce l'UDC, un partito rappresentato in Parlamento, eccetera. Beppe Grillo, UDC, l'Unione dei Carcerati. Che volete fare? Così Beppe Grillo al comizio spettacolo tenuto ad Ancona a sostegno del candidato sindaco della lista civica dei comuni a 5 stelle, l'economista Mauro Gallegatti. Fanno finta di discutere, aggiunto, e discutono sull'eutanasia, sulla vita e sulla morte, sull'unione gay, cose che poi non hanno soluzioni. Ma se vai a vedere PDL e PD-L, sotto hanno lo stesso identico piano economico: fare inceneritori, rigassificatori, centrali a biomasse, ponti sullo stretto, ipermercati, che siano Coop Rosse o Impregilo, è la stessa cosa. Questa è la fine analisi politica di Beppe Grillo. Così va il mondo. Eravamo con Maria Dalodi, la quale è molto curiosa di sapere cosa avveniva a Villa Certosa durante queste feste, questi ritrovi, queste scampagnate in compagnia di Apicella e altri. È vero, Maria? Sì, però lei io la seguo sempre, Cruciani. La ringrazio molto. Io veramente, per cui ho imparato anche un po' a conoscerla. Sì. Queste sottolineature, queste sfumature che dà agli interventi danno la linea di quello che vuole segnalare lei. Non è bello, cioè io non capisco, non so, magari l'ho resa io indisponente nei miei confronti per qualcosa che ho detto. No, ma io ho detto, lei è curiosa di sapere, pensa che sia importante sapere, pensa. La mette su una curiosità come se io voglia andare a vedere. No, no, se ho fatto così ho sbagliato, se ho dato a intendere così ho sbagliato. Lei vuole... Pensa che sia importante che Berlusconi chiarisca cosa Penso è accaduto in quelle feste. Bravo, Berlusconi deve chiarire perché è un presidente del Consiglio. Deve fare. Ma lui ha già detto, ha già spiegato quello che accade in quelle feste. Ha già spiegato da parte sua quello che accade in quelle feste. Cosa, oltre il racconto di Berlusconi, il racconto di altri, eccetera, chi è che dovrebbe indagare su queste feste? Mi spieghi? Berlusconi deve deve avere una, come, un legame con le cose che poi si vedono e che saltano fuori. Ho capito, Maria, che cosa dovrebbe spiegare? Se io ho l'impressione che lei voglia una spiegazione sui rapporti sessuali tra Berlusconi e queste ragazze. Se non c'è questa spiegazione, allora, lei non è contenta. Allora mi dica. Io le dico questo. Berlusconi, se ha avuto dei rapporti sessuali o quello che è successo in questa villa, a Villa Certosa... Saranno anche affari suoi, in parte, no? Allora, sono affari suoi nella sua vita privata. Visto che è un uomo pubblico, è un presidente del Consiglio... Deve spiegare con chi va a letto? Deve spiegare con chi va a letto? Beh, deve rendere pubblico le cose che fa in quella no, mi perdoni, è un po' bizzarra come cosa. Io non vado a chiedere che cosa fa a letto, tanto che non le ho parlato della sua separazione da Veronica Lardi. Allora, cosa dovrebbe spiegare? Ancora non l'ho capito cosa dovrebbe spiegare, allora, Maria, mi scusi. Una villa Certosa, mette il segreto di Stato. Se ci sono ma che c'entra il segreto di Stato in questo caso? Mi scusi, c'è un fotografo, ma quale segreto di Stato? C'è un fotografo che... C'è una serie di eventi, di fatti, che vanno a determinare qualcosa di diverso o comunque che non coincide con le parole del Presidente del Consiglio. Ma qui si deve capire, deve essere chiaro, si deve capire se sta mentendo. Ma questo è un altro discorso, lei sta parlando della vicenda di Noemi Letizia che non ha niente a che fare con le questioni che riguardano i frequentatori di Villa Certosa. Lei è partita dicendo va chiarito quello che accade all'interno di Villa Certosa. Io le dico, ma dipende cosa va chiarito, perché Topolanek, l'ex primo ministro cieco, era nudo sul bordo della piscina, era in un momento di relax, lo sappiamo. E perché c'erano tante ragazze? Ci sono delle spiegazioni varie su questo. Cos'è che va chiarito? Mi spieghi su quello che avviene all'interno di Villa Certosa. Perché è così importante secondo lei? Insieme tutte lei, io non sto parlando ma allora che cos'è che va chiarito? Mi spieghi secondo lei cosa va chiarito? Dica, no? Non dica a me queste cose, io ho fatto un passaggio preciso e gli ho detto se i fatti che vengono dimostrati da una serie di fatti concreti che si trovano non coincidono con le parole del Presidente. Ma di cosa sta parlando lei? Di cosa sta, qual è l'argomento? L'argomento Sto dicendo, bisogna capire se il Presidente del Consiglio sta mentendo. Ma su che cosa? Su Noemi? Su che cosa? Ma su quali argomenti? Su quello che è accaduto a Villa Certosa nell'occasione del Capodanno, dove si sono uscite determinate posizioni che possono essere imbarazzanti. Cioè, secondo lei Berlusconi dovrebbe spiegare che cosa facevano esattamente tutta la sera le 30-40 ragazze di cui si è parlato? Questo dovrebbe spiegare? Guardi, già il fatto che dica sì, tutta questa cosa è vera. Già il fatto che ammetta questa cosa alla gente che lo riceve, uno si fa la sua idea di che tipo di persona è. Va bene, d'accordo, Maria. È questo. Va bene, d'accordo, ho capito. La ringrazio, buona serata. Franco D'Arieti, buonasera. Buonasera Cruciani, innanzitutto complimenti per quello che ci ha fatto ascoltare Tannini Fede, perché è veramente bellissimo, bellissimo. No, niente, io volevo intervenire sull'utilizzo degli aerei di Stato, insomma l'utilizzo abbastanza allegro che viene fatto in Italia. Io ho letto, purtroppo devo dire, perché il quadro che mi sono fatto è veramente deprimente, La Casta, poi L'Aggiornamento, poi gli altri libri che scrivono Stella e Rizzo. E devo dire che quello che viene fuori è un quadro, come ho detto, desolante, in quanto sugli aerei, in particolar modo Stella e Rizzo, adesso non so quale dei due, ha fatto un calcolo che alla fine l'utilizzo degli aerei di Stato, facendo dei calcoli che loro hanno fatto, cioè risulta che gli aerei di Stato volano più di 24 ore al giorno. Chiedendo informazioni a Palazzo Chigi non ha avuto nessun tipo di risposta. Io vorrei sapere perché nel nostro paese non succede quello che sta succedendo in Inghilterra, dove per somme, come diceva anche lei, veramente se facciamo il confronto ridicole, cioè si dimetterà probabilmente o si è già dimesso. Sì, però mi scusi Franco, qui dobbiamo decidere. La questione è questa. Cos'è che è sbagliato nella vicenda degli aerei di Stato? Cioè non devono salire sugli aerei di Stato amici? Conoscenti, questo è il punto, oppure il prezzo troppo, oppure ne usiamo troppi? Mi spieghi secondo tutte lei qual due, è il punto? Tutte e due, perché in Inghilterra, se questo sempre nella Casta, si fa questo parallelismo sia parlando del Quirinale ma anche degli aerei di Stato, l'utilizzo degli aerei di Stato da parte della regina Elisabetta viene messo sul sito internet di Buckingham Palace e c'è scritto chi ha preso gli aerei, ma no di Stato, perché loro prendono gli aerei di linea. Non ci dovrebbe essere questo uso l'utilizzo degli aerei di Stato, che costano un sacco di soldi. Cioè, secondo lei si dovrebbero usare meno aerei di Stato, questo è il punto. E con maggiore trasparenza. Mi fanno ridere oggi quando sento dire che l'apparata militare è stata sobria e hanno risparmiato 1 milione. Ma quanto spendono nell'utilizzo degli aerei di Stato o di altre cose che basta leggere i libri di Stella e Rizzo, vengono fuori in tutte le pagine. Cioè, io sono veramente... E vorrei che anche in Italia succedesse un po' quello che succede all'estero, dove, ricordiamo, c'è stata una commissione europea, la commissione Santer, qualche anno fa, che si è dimessa anche lì per una cosa che in Italia, ma neanche scriverebbero i giornali, si è dimessa una commissione europea. Sì, però Franco, qui c'è da, ancora una volta, c'è da chiarire una cosa per non fare facile demagogia. Io non so come funzionino, e restiamo ai voli di Stato, perché di questo stiamo parlando, io non so come funzionino i voli di Stato in altri paesi. Certamente in Italia c'è un uso forse eccessivo rispetto ad altri paesi, in generale tra auto blu e voli di Stato, cioè la rappresentanza istituzionale si serve molto di più di queste cose rispetto alla Gran Bretagna o alla Francia, secondo le notizie approssimative che possiamo avere, non è facile averle. Per non tornare sempre a parlare dei soliti problemi, la casta, eccetera, eccetera, le chiedo ancora, su questi aerei, secondo lei, chi dovrebbe salire? Ma un numero... Se vengono utilizzati, cioè è giusto che salga per esempio una ballerina di flamenco su un aereo? Assolutamente no, anche se il costo è uguale, ma non deve salire. E poi se... Perché non deve salire? Perché non deve salire? Perché non deve... No, non deve, ma perché lei deve salire? Io, ma non ho capito, con quale diritto la ballerina... Beh, perché lo vuole, in questo caso lo vuole un ministro, il presidente del consiglio, per motivi più vari. No, è una domanda, non è... No, io non sono assolutamente d'accordo, ma che l'aereo di Stato che pago anch'io lo utilizza per le feste private, si fa arrivare la ballerina, che poi bisogna vedere se sull'aereo c'era anche Berlusconi. Beh sì, questa è la premessa di tutto, naturalmente se non fosse così sarebbe molto grave. Su questo noi partiamo dal presupposto che Berlusconi o un altro ministro eccetera chiami quella persona, dica io parto con l'aereo di Stato, vuoi venire? Noi partiamo da questo presupposto, diamo per scontato questo, altrimenti cambierebbe tutto, è evidente, no? Anche dando questo come presupposto, gli aerei di Stato, e questo leggendo anche sulla casta si vede, ce ne sono di vari tipi e di varie dimensioni. Si prendono, si fanno volare quelli più piccoli se le personalità effettivamente che hanno diritto all'aereo di Stato devono andare di là. Cioè non che si devono portare dietro i giornali. Ho capito. La ringrazio, c'è un gentile ascoltatore che non capisce l'importanza che hanno certe parole e soprattutto la gravità di certe parole, soprattutto l'utilizzo di una parola che è servo, e dunque scrive tranquillamente come se fosse una cosa leggera: lei è un servo di padrone, che poi non capisco qual è il padrone in questo caso. 19:45, 30 secondi, torniamo subito. Non ci sono i 30 secondi oggi, e allora proseguiamo con Stefano Zurlo del giornale. Buonasera. Buonasera. Ciao Stefano. Allora, stiamo parlando anche di una guerra mediatica che c'è stata in questi giorni tra Repubblica, dal gruppo Espresso anzi, e Il Giornale. Per riassumere un po' gli ascoltatori, qualche giorno fa, esattamente 2 giorni fa, il 31 maggio, esce un articolo sul Giornale che ha questo titolo: erano pronti a pagarmi per incastrare Berlusconi, la proposta di 2 giornalisti dell'Espresso a Laura, concorrente del Grande Fratello, lei chiede 50.000 euro, loro disposti a trattare, basta un sms, questo tra virgolette, che provi la relazione. Questo naturalmente è il riassunto poi di tutto l'articolo della vicenda. La risposta dell'Espresso è stata questa, la leggo per gli ascoltatori, tu la conosci bene. Il 27 maggio Roberto Arrigoni, titolare dell'agenzia fotografica Uno Press, contattava ripetutamente un nostro collega proponendogli un'intervista con Laura Zerewicka, disponibile a raccontare i suoi rapporti con Silvio Berlusconi. Nel corso dell'incontro, alla richiesta di denaro per rilasciare l'intervista, il collega precisava che mai sarebbe stata pagata un'intervista. Se l'agenzia avesse proposto fotografie, queste sarebbero state valutate ed eventualmente acquistate secondo una normale prassi. Le telefonate intercorse con l'agenzia fotografica e l'incontro del nostro collega con la signora Drevixa sono state registrate. Ora, voi avete effettivamente scritto che l'Espresso ha proposto 50.000 euro a questa signora oppure no? Oppure avete scritto qualcosa di diverso? No, dunque abbiamo scritto esattamente quello che è successo, almeno quello che ho desunto dalla registrazione, che l'Espresso peraltro ha confermato, cioè lei chiedeva 50.000 euro, lei, diciamo l'ex Grande Fratello, questa ragazza chiedeva, sì, 50.000 euro, loro hanno trattato e hanno detto l'intervista da sola non te la paghiamo, sì, questo l'ho scritto e riscritto 20 volte nel pezzo, ti paghiamo eventualmente se ci dai prove o elementi che confermino la relazione che tu avresti avuto, che lei millantava in quel caso, spacciava, sosteneva di aver avuto col Presidente del Consiglio. Dunque, questo è il problema, il, sì, problema, cioè, non è tanto, cioè, è formale, ma non è formale, perché io non ho mai detto e non mi permetterei mai di dire cose non vere, e infatti l'Espresso dice noi non abbiamo mai pagato, mai detto di che volevamo pagare, avremmo pagato l'intervista, verissimo, confermo, loro avrebbero pagato il resto, il contorno, il cotè. Cioè, loro offrivano soldi, le prove, esatto, tutto il resto. Perché loro parlano solamente di fotografie. E, invece... Beh, sai, io ho riportato poi tutto quello che si hanno detto e che appunto lei poi mi ha ripetuto più volte. Beh, e che poi è il dato vero dell'articolo, perché io non mi metto a fare, per quanto mi riguarda almeno, la guerra a niente o a nessuno. Racconto soltanto un lato, secondo me un po' malato, poi non voglio dare giudizi su nessuno, voglio fare certo il moralista, per carità, ci mancherebbe, però un lato un po' malato del giornalismo che peraltro è figlio della politica di questi giorni, di queste settimane, per cui invece che occuparci di tutti i problemi politici enormi che ci sono, cominciando dalla crisi economica e tutto il resto, ormai ci accaniamo, io personalmente giorni e giorni, come molti altri colleghi, che mi occupo ormai soltanto di Villa Certosa, delle foto, delle ragazze in topless, minorenni che forse non sono minorenni, Noemi e tutto il resto. E qui in questa intervista il dato a mio parere impressionante, e ripeto, non voglio fare assolutamente né il moralista né il censore di niente, di nessuno, ben vengano le critiche anche feroci, però il dato impressionante sono le domande che i colleghi dell'Espresso hanno fatto a questa ragazza, domande che ho riportato, che ha riportato poi anche Giordano nel suo editoriale, domande di questo tenore: è vero che lui fa le punture sul pene per avere prestazioni prolungate? È vero che gli piace avere rapporti con uno o due ragazze insieme? È vero che gli piacciono le orge? Che tipo di relazione hai avuto? Perché si è stufato? Si è stufato? Non si è stufato? Hai un SMS che lo prova? Hai una foto? Hai questo? Hai quello? Beh, insomma, siamo, come dire, per dirla, insomma, siamo dalle parti del basso ventre, pare che la politica ormai si occupi solo di questo, insomma. Ecco, al di là delle considerazioni sulla politica, di cosa si deve occupare o di cosa non si deve occupare, qualche volta i dettagli sono importanti, perché l'Espresso sostiene che non sono stati offerti i soldi per l'intervista, cosa che nemmeno voi dite. Mai detto, guarda, non è mai scritto, no, va bene, però, diciamo, il problema, ripeto, scusami se ti interrompo, il problema è su che cosa verte l'intervista, questo è il problema, cioè stiamo veramente dentro la vita, non so come dire, non privata, ma di più del Presidente del Consiglio, perché le domande sono quelle che ho appena detto, le iniezioni, le sì, orge, sì, ma di questo poi chiederemo a Lillo. Tutto quello che prova il rapporto col Presidente del Consiglio, quindi qualsiasi cosa a questo punto viene trattata, la foto, l'SMS, che ne so, un diamante, cioè, secondo un le vostre secondo le vostre registrazioni, loro, l'Espresso, avrebbe offerto soldi in cambio di prove di una relazione con Berlusconi, qualsiasi prova, foto, questo, regali, SMS. Questo dicono loro, nel senso che dicono trattiamo, e la conversazione va avanti molto a lungo, trattiamo, siamo disposti, questo dicono loro, io non voglio dire né di più né di meno, ripeto, non voglio fare la guerra a nessuno perché non mi interessa, sto solo raccontando come si fa anche oggi giornalismo da parte di un settimanale che è peraltro un settimanale di primaria importanza, uno dei più importanti italiani, che spessissimo ha fatto inchieste, sì, straordinarie, quindi non voglio assolutamente fare la parte di quello che chissà va a dire che cosa, dico solo che loro trattano a lungo su SMS, diamante, regalo, prova, foto, insomma tutto quello che possiamo pagare, possiamo andare dal direttore a discutere, naturalmente loro, devo anche essere specificare, voglio essere ancora più preciso, e questo per fortuna, perché non voglio, ripeto, buttare così, sì, tutto in vacca, per fortuna loro non, quando è lei che chiede, lei insomma, o la sua amica, ma direi lei insomma, questa Laura chiede i 50.000 euro, loro non, non non dicono mai ti diamo 50.000 euro, dicono se tu ci porti le prove di tutte queste cose, che poi vuol dire di questa relazione, di questo rapporto, sì, col Presidente del Consiglio, andiamo dal direttore, vediamo, trattiamo, stabiliamo un compenso, e loro non dicono mai 50.000, ok, chiudiamo. A pare che nessun giornalista dice, non è che se io vado a parlare con no, certo, non puoi chiudere, non puoi chiudere, no, come nel caso famoso delle altre foto, quelle di Panorama, che vanno da Amadori, no, il Zappato gli dice, to, 1.500.000 euro, non è che Amadori, presumo, dice, ah sì, to, ti do 1.500.000 euro, compro le foto, farebbe ridere. E loro dicono, ma però possiamo andare al direttore, possiamo trattare, possiamo parlare, però mi pare che sia un po' tutto l'impianto di questa storia che vada quantomeno raccontato e vada spiegato, ripeto, senza fare censori, senza fare i moralisti, però ormai ci sono moltissimi giornalisti che passano buona parte del loro tempo a scrutare, investigare tutte queste ragazze per capire se tra le pieghe di queste relazioni vere, presunte, verosimili, millantate. Però scusami un attimo, al di là di questo, perché per esempio vari giornalisti dell'Espresso sui blog dicono che è stato smascherato il bluff del giornale, che dietro c'è una manovra del giornale per screditare Repubblica, eccetera. Allora qui nessuno vuole screditare nessuno. Io ho solo detto, io siccome il pezzo l'ho scritto, l'ho firmato, mi prendo le mie responsabilità. Io non voglio screditare niente nessuno, voglio solo raccontare come si fa oggi, su che cosa si fa, più che come si fa, su che cosa si fa, che cosa si chiede oggi nelle domande che si fanno in interviste o colloqui o quant'altro che precedono eventualmente pezzi, articoli. Cioè non è una normale inchiesta giornalistica secondo te? No, ma si può anche fare, ma voglio dire, il problema, poi per carità, leggo sul Times di Londra, leggo sui grandi giornali inglesi che un giorno sono austeri, un giorno invece si occupano evidentemente degli organi genitali dei vari presidenti del Consiglio, perché poi non si capisce bene i giornali inglesi come sono, perché un giorno sono british, un giorno sono peggio dei nostri e se ne vantano, però insomma leggo che è tutto lecito, che va tutto bene, benissimo, va tutto bene, però mi fa una certa impressione che ci sia appunto ormai tutto un genere letterario e giornalistico che verte esclusivamente sulla vita privata, sulle abitudini sessuali vere, presunte, verosimili di Berlusconi e si lasci perdere tutto il resto, dopodiché che si arrivi a dire, a prospettare di pagare tutto quello che può provare questo, anche questo secondo me è un dato su cui riflettere. Poi non sono certo io a dare patenti di più bravo, meno bravo, o a dire qualcuno ha parlato di trappolone, leggo sul blog di Alessandro Giglioli, io ho parlato con questa ragazza, lei mi ha raccontato queste cose, c'era una registrazione eccetera, naturalmente il trappolone si riferirà, presumo, alla possibile origine di questa storia, perché lei evidentemente avrà provato a fare una trappola, loro sostengono di aver controintrappolato lei avendo registrato a loro volta, ma queste cose interessano fino a un certo punto, perché voglio dire, ammettiamo che questa cosa sia stata architettata, non so bene da chi o come, ammettiamo che sia stato un tentativo di fare una trappola, io però registro una conversazione, un dialogo, una possibile intervista dove si tratta di soldi per sapere appunto se questo è un amante, due amanti, se si è accoppiato. Cioè non è una cosa che avete organizzato voi, questo? No, assolutamente no, ci mancherebbe, no, io non mi metto, no, questo vorrei escludere, no, questo ovviamente lo escludo al mille per mille, io non ho organizzato nessuna cosa di questo tipo, assolutamente mai organizzato una cosa del genere. Cioè sul blog di Alessandro Giglioli, con giornalista dell'Espresso, la prossima volta che organizzate un trappolone, gentilmente non uscite la domenica con le vostre panzane, eccetera, eccetera. C'è un riferimento diretto a un trappolone. Allora, due cose. Io non ho organizzato proprio niente, io ho raccolto il racconto di questa signorina, la quale poi, voglio dire, se la vedrà lei con chi, se e come ha organizzato la cosa. È chiaro che evidentemente lei voleva, presumo, intrappolare loro, ma del resto questo mi pare che nel pezzo lo abbia anche scritto e spiegato. Se poi lei l'ha fatto, con chi l'ha fatto, come l'ha fatto, se le è stato promesso o detto qualcosa, è un problema suo e non mio. Io ho raccontato questa cosa, aggiungo solo un dettaglio, che invece di dire come fa l'Espresso, noi abbiamo fatto la controtrappola, abbiamo visto, secondo me, se questa è spazzatura, se è spazzatura, perché questo poi è il problema, o comunque se è morbosità, allora magari uno non sta a discutere con questa signorina, a farle tutta questa sfilza di domande che sono durate ore, no? Ripeto, ce n'è una caterva di queste domande. Dopo ne parleremo con Marco Lillo. Non voglio, però non si tratta, secondo me, di dire allora c'è un complotto, c'è una cosa, ce n'è una. Io ho registrato una cosa che questa qui ha raccontato, e come se ne vede sul giornale di oggi, ce n'è un'altra e poi un'altra ancora, perché ce n'è una sfilza. Questo è dunque, è vero secondo questo voi che c'è una caccia a queste persone? Evidente che c'è una caccia a queste persone, evidente che c'è, a tutte le Noemi, chiamiamole così, minorenni o maggiorenni, veline o quant'altro in giro. Dunque, quel settimanale romano di cui parla un'altra persona oggi sul giornale, l'Espresso? Non ho capito, scusa. scusa? Il settimanale romano di cui parla un'altra persona intervistata sul giornale di oggi, l'Espresso? Credo di sì, ma non ho la certezza matematica. Credo di sì, però. Credo di sì, perché secondo me quel pezzo non l'ho scritto io, non vorrei. Vado alla sensazione e penso di sì, però non ne ho la certezza, non ne ho la certezza assoluta. Dopodiché, ripeto, siccome evidentemente questo argomento, cioè quello che è nato dalla vicenda Veronica Lario, del caso Noemi, sì, sì, è chiaro che è un argomento che interessa, evidentemente si possono fare tutti i ragionamenti, tutte le interviste, tutte le critiche, tutto quello che si vuole. L'unico mio problema era raccontare un lato di questo non c'è bisogno di giustificarsi. Grazie a Stefano Zurlo. TG1, titoli. Airbus scomparso, avvistati rottami nell'Oceano Atlantico al largo di un'isola brasiliana, giallo sulle cause della sciagura. Napolitano, campagna elettorale fuori tono, più misura da parte di tutti. 2 giugno, parata più sobria ai fori imperiali. Berlusconi, il nostro governo del fare, da sinistra chiacchiere, D'Alema, il premier a mettere in piazza le sue questioni personali. Verona, ferito con una bottigliata, il procuratore che indaga sull'estrema destra, vorrei spiegare a questi ragazzi, dice, perché sbagliano. Autovelox illegali dopo gli impianti sequestrati in tutta Italia, ecco cosa fare per contestare le multe. L'ultima impresa dell'uomo ragno francese, in un'ora scala un grattacielo a Sydney, poi viene arrestato. TG5, andiamo con i titoli anche del telegiornale di Mediaset. Nell'Atlantico, dove la profondità arriva a 5.000 metri, affiorano alcuni resti dell'Airbus precipitato con 228 persone, tra cui 10 italiani. Ancora mistero sulle cause della sciagura. 2 giugno, parata all'insegna della sobrietà e della solidarietà, i soldi risparmiati andranno ai terremotati d'Abruzzo. Aperti i giardini del Quirinale, Napolitano, dopo il voto, auspico da tutti atteggiamenti più misurati. Berlusconi a Firenze, più militari per la sicurezza nelle città. L'Europa dice serve un grande drizzone, dal governo concretezza, dagli altri solo chiacchiere. Franceschini col PD, battaglia profonda sulla crisi economica e sui valori. Casini, bene l'invito di Napolitano alla coesione. Pannella, il sistema partitocratico non riuscirà ad eliminarci. 50 giorni in ospedale, ora finalmente a casa. Marta era stata estratta dalle macerie 23 ore dopo il sisma. Ricostruzione, ecco come saranno le case del dopoterremoto. Remoto. Miti intramontabili, la carriera dei Beatles da Liverpool al successo mondiale in un videogame e a Cesano Maderno revival. Va bene, andiamo a Firenze. Ferdinando, buonasera. Mi sente? Ferdinando? Benissimo. Dica. Niente, no, siccome la sentivo dire che poc'anzi c'era stata un'altra, diceva Barca di Folla, io siccome abito qui a 200 metri da dove c'era in piazza Ogni Santi il presidente del consiglio dentro l'albergo, l'ho visto il bagno di folla a Firenze, ma questo è proprio un bagno di folla, diciamo una follettina, via. La piazzetta è piccolina, la piazza Ogni Santi è proprio una piazzettina. L'albergo, anche la hall dell'albergo e la sala che gli hanno messo a disposizione, se la voleva grossa poteva andare a Palazzo dei Congressi, ci entravano 5.000, qui se non 1.000. No, insomma, Ferdinando, prima avevamo detto che il titolo... Perché raccogliere, quindi... No, per carità, prima avevamo detto che il titolo di Italia 1, del telegiornale Studio Aperto, ci sembrava eccessivo, sul bagno di folla, e poi abbiamo scoperto che in realtà alcune agenzie di stampa titolavano proprio così, bagno di folla di Berlusconi, a Firenze, prima della presentazione del candidato Giovanni Galli. Lei abita là vicino e proprio un bagno di folla non è stato, no? No, di follettina, dai, piccola piccola. Qualche volta anche le agenzie di stampa come l'ANSA esagerano dunque, no? Esagerano alla grande, alla grande. Gli posso dire un'altra cosa, però? Prego, prego, dica, dica. Un'attesa, dica. E allora è difficile non intervenire anche sul resto che ho prego, sentito. Prego, quello che vuole, quello che io vuole. Io la seguo sempre, ultimamente lei però mi sta un pochino antipatico, a dire la verità. Io sono quasi sempre antipatico. No, ma ultimamente manco un po' troppo, perché ha degli atteggiamenti giustificazionisti verso Berlusconi un po' esagerati. Tipo dipende naturalmente, sera... dipende con che occhi uno vede le cose, se uno... Ma quando l'altra sera lei l'ha detto che è convinto, che lui quando ha detto non voglio la società multietnica voleva dire un'altra cosa, ma lei... No, io ho detto, guardi Ferdinando, io non ho detto che voleva dire un'altra cosa, ho detto semplicemente che non sapeva quello che di cui stava parlando e che è ancora più grave forse. Io non ho detto che voleva dire un'altra cosa. Lei è presidente del consiglio. E io quello ho detto, Ferdinando, io quello ho detto. Ho detto che secondo me quando diceva noi non vogliamo una società multietnica, probabilmente non sapeva quello che stava dicendo. Per guarda che io sono particolarmente sensibile perché la mia moglie è nigeriana, è diventata cittadina italiana da poco, per cui però guardi che Ferdinando, la società multietnica in realtà anche la maggior parte dei paesi europei non hanno una società multietnica, hanno una società in cui c'è una, come dire, un nucleo consistente e poi diverse etnie che convivono secondo principi che però sono quelli di diciamo dell'etnia principale, no? Del ceppo principale. Ma senta, io conosco bene l'Inghilterra per motivi di famiglia, perché la parte della moglie, la famiglia ce l'ha tutta su Londra, cioè. Non è che si possa parlare di una società effettivamente non razzista o apertissima, però dove i gruppi etnici convivono e si rispettano. E questo è quello. Beh, che anche in Italia non mi pare che non ci sia rispetto nei confronti. No, guardi Cruciani, io avere la moglie nera ho fatto molta esperienza, da noi ce n'è il razzismo e tanto, tanto, finché non lo vedi in maniera diretta. Che tipo di pregiudizi secondo lei? Di tutti i tipi. Mia moglie è un'imprenditrice, è proprietaria di casa, paga le tasse eccetera, però appena la vedano all'aeroporto, se siamo 25, lei è l'unica che viene fermata su un volo intero, per dirle. E viene trattata anche Marina. Oppure Marino in che senso? Gli si rivolge Marino, in maniera rude, in maniera dandogli del tu. Ora, siccome lei è qui da più di ormai 15 anni, sa come trattare con certe persone. Quindi però i maleducati esistono dappertutto, Ferdinando. Ma quando sono pubblici funzionari che di mestiere fanno la polizia di frontiera, non dovrebbe. No, certo. Però da qui a dire che l'Italia è un paese, insomma, da questo punto di vista, irrispettoso. È un razzismo latente, non biologico, molto fondato sull'ignoranza, ma purtroppo fa danni come quell'altro. Io questo dico. E allora l'azione culturale è importante, no? Sottovalutarlo delle volte non si fa. No, si ma nessuno sottovaluta niente, Ferdinando. Io continuo a ritenere, continuo a pensare che l'Italia sia invece un paese dove certamente ci sono delle sacche di razzismo, ma tutto è tranne che un paese fondamentalmente razzista, in cui comunque è difficile per una persona di colore farsi strada. Ci sono tanti esempi, e lo stesso esempio di sua moglie che fa l'imprenditrice appunto lo dimostra. Poi al di là dei singoli episodi. Ferdinando, la ringrazio. Alle 20:07 minuti abbiamo anche il telegiornale della 7, sentiamo i titoli. Non ce l'abbiamo. Thierry da Verona, buonasera Thierry. Buonasera signor Cruciani, tra l'altro il mio intervento era per tutt'altra cosa, poi l'intervento precedente gli ho offerto anche lo spunto per tornare su un tema di qualche settimana fa. Guarda, l'Italia, come diceva anche lei, sarà piena di queste persone ignoranti, ma lo saranno ancora tale fintanto che troveranno gente come lei sempre a giustificarli. Io le dico una cosa, come fa a dire per prendere consiglio che non sapeva ciò che stava dicendo? Ma non è una giustificazione. Ma non è una giustificazione, non è una giustificazione, è semplicemente una constatazione, un'analisi, non era una cosa spiegata bene, era una cosa di cui secondo me non si è nemmeno reso conto dell'importanza dell'uso di certe parole, come quello di una società multiculturale, che una parola che va spiegata, un concetto che non va utilizzato in quel contesto. Non c'era una, come dire, una sottovalutazione delle parole di Berlusconi. Signor Cruciani, se lo dice lei è un conto, lo dice il Presidente è un'altra cosa. Il Presidente lo dice, io ho una moglie italiana, mi guardo mio figlio e dico, ma dove andiamo a vivere? Andiamo via! Ma andiamo via! Sì, e vada via, che cosa vuole che le dica? Ma ti rendete conto che io stesso, come diceva il signore, io faccio il medico. Ogni volta, quando si scende da un aereo in Italia, su un volo, se sei da solo, cioè, guarda, cosa incredibile. Guarda, lasciamo perdere. Comunque, non di cosa volevo parlare oggi. Lasciamo perdere, ma però questa è una cosa veramente che non fa onore al paese. Così come... Ma cos'è che non fa onore al paese? Non ho capito che cos'è che non fa onore al paese, mi scusi. Non fa onore al paese che un Presidente del Consiglio possa dire che l'Italia, o quantomeno dice, la nostra Italia non sarà mai una società multietnica. O non è un nostro progetto politico. Non dice il Presidente. Ma guardi che, guardi che dire che l'Italia non sarà mai, a parte che non ha detto multietnica, credo che abbia utilizzato la parola multiculturale, se non sbaglio, no? Oppure multietnica, non lo so. Non è mica una. Non c'è nessun paese in Europa che abbia, come dire, un mélange profondo di culture e di etnie. C'è sempre una, no, un ceppo, un'etnia principale. Non ha detto una cosa fuori dal mondo, se poi andiamo ad analizzarla. Secondo me non si rendeva conto, ripeto, di quello che diceva. Però non, andando poi ad analizzare parola per parola quello che ha detto, non mi pare una cosa così stramba. Bene, 20:11, allora Berlusconi disse no alla società multietnica, la sinistra vuole una società multietnica, non è la nostra idea, questo disse il 9 maggio se non sbaglio. Allora, Thierry è molto arrabbiato per questa frase. Molto è dire poco. Cioè, molto è dire poco. Io sono italiano perché ho preso quella cittadinanza. Ma sinceramente, sentire il mio presidente. Ma lei di dov'è? Lei di dov'è, Thierry? Di dov'è originario? Del Camerun. Del Camerun. Prego, prego, continui. E tra l'altro. Ma guardi, dire che non. Però mi scusi, perché non bisogna essere politicamente corretti su questo. Dire che noi non vogliamo una società multietnica, come ha detto Berlusconi, non significa mica essere razzisti o discriminare qualcuno. Significa che quello che conta sono alcuni principi cui gli altri si devono adeguare. Mettiamola così. Cosa c'è di strano in questo? Il presidente è il regista di una squadra che è la sua maggioranza. Quando nello stesso periodo sente uno che dice ma sugli autobus deve dare precedenza a questo. Ah, ho capito, Thierry, ma questo l'abbiamo condannato in maniera forte. Poi lo stesso Berlusconi ha detto che era una stupidaggine. Abbiamo fatto 2 giorni di trasmissione in cui abbiamo preso in giro Salvini. Più di questo che dobbiamo fare per quello che ci riguarda? Messaggi di quel tipo lì, alla fine uno non fa un'analisi per estrazione, uno fa un'analisi di un comportamento generale, di una politica. Poi questo governo ne sta dando atto di questi comportamenti. Le dico, signor Crociani, tra l'altro lei una volta, mi ricordo, ha chiamato una mia collega connazionale che si lamentava dei ritardi che avevano rinnovato i visti di soggiorno. Sa cosa le ha detto lei? Lei le ha risposto che anche gli italiani fanno delle sfide per queste cose. No, Thierry, la sfida. La sfido a trovare una mia risposta di questo tipo, perché ho sempre sostenuto che i ritardi per il permesso di soggiorno sono uno scandalo tutto italiano e chi ha diritto al permesso di soggiorno lo deve ottenere rapidamente, per cui non esiste una cosa di questo tipo. Vado a controllare, ma non esiste. Ma il problema non è quello che ho detto o non ho detto io. Lei stava parlando di un'altra cosa, Thierry. Le posso escludere che abbia detto una cosa di questo tipo, perché quando si parla di rinnovo di permessi di soggiorno dico sempre che le file e le complessità burocratiche sono una vergogna italiana. Per cui, se vuole, glielo ripeto adesso, non ho problemi. Thierry, vada alla conclusione di questo discorso. Dove vuole arrivare? Vuole arrivare sul fatto che sinceramente, guarda, Gerardo, io gli ho detto, non la chiamavo per questo. E allora perché cosa mi chiamava? Perché cosa mi chiamava allora? Chiamavo per quello che sta succedendo adesso. Non stiamo dando uno spettacolo bello dell'Italia al mondo. E queste discussioni sul Berlusconi, su Noemi, su quant'altro, su Apicella, sulle circolazioni e altro. E che lei si proponga sempre o si pone come un giustificato, non potrebbe giustificare Berlusconi. Ma chi giustifica Berlusconi? Io cerco di analizzare la realtà per quella che è, senza pregiudizi. Qui in Italia siamo arrivati all'assurdo, e la ringrazio, Thierry, di queste domande, di queste osservazioni. Lei dice io giustifico Berlusconi. Siamo arrivati alla follia pura, che se uno non dice all'inizio di una trasmissione o se uno non fa una premessa, Berlusconi è un criminale, un mentitore, un burattino, un pagliaccio, un mafioso, allora automaticamente è iscritto alla categoria servi di Berlusconi, oppure giustificazionisti di Berlusconi, o lecchini, o leccapiedi, come moltissimi messaggi che mi mandano. È veramente una stortura tutta italiana questa qua. Prima di un ospite, altri ascoltatori, siamo con Massimo dalla provincia di Lecco, buonasera. Sì, buonasera. Pronto? Dica Massimo. Ah, non sentivo più. Complimenti alla trasmissione che seguo qualche anno, soprattutto prima quando giravo molto per l'Italia, avevo più occasione di stare in macchina più facile. In macchina, esatto. Più facile. Dica pure Massimo. No, il mio intervento è in merito ai miracoli che noi riusciamo a fare in Italia, cioè risparmiamo 1 milione di euro accorciando la parata militare del che mi sembra un po' pochino, francamente. È comunque un po' pochino lo stesso. E dopo magicamente spendiamo per 10 giorni 100.000 euro per risistemare Palermo. Quanto riguarda le immondizie, 100.000 euro mi sembra anche qua forse un po' di più. 100.000 euro per 10 giorni, questa era Radio 24 pomeriggio, quindi diventa 1 milione. Quindi e quel 1 milione per Palermo verrebbe preso da Protezione Civile, che guarda caso lavora in Abruzzo, che guarda caso prenderà il 1 milione risparmiato dalla parata del 2 giugno. Insomma, una bella partita di giro. La ringrazio per questa osservazione. 800 24 00 24, siamo con Marco Lillo dell'Espresso, eccoci qui, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Lillo è stato già nostro ospite con Luca Teresi a venerdì, quando ancora però non erano uscite fuori diverse cose. E dunque l'abbiamo rinvitato soprattutto dopo aver sentito la versione un quarto d'ora fa circa, poco più, di Stefano Zurlo del Giornale. Faremo sentire anche alcune registrazioni dell'Espresso, cioè del colloquio tra Marco Lillo e questa ragazza, Laura Zrevica, un cognome impronunciabile, 22 anni, ex partecipante al Grande Fratello. Diciamo subito, prima abbiamo ricostruito in maniera sommaria la vicenda Lillo, che questa intervista vi era stata proposta, non l'avete cercata voi, prima cosa, no? Io vorrei prima di tutto dire una cosa anche nell'interesse di Radio 24 e spero anche di Zurlo, che l'ha detta forse con leggerezza. Quando lei in conclusione dell'intervista ha chiesto a Zurlo se nella prima pagina del giornale oggi si fa riferimento all'Espresso, lui ha detto mi sembra di sì. Io gli auguro di richiamare e rettificare questa affermazione, perché altrimenti Zurlo, mi dispiace per lui, si prenderà una querela, perché non è suo l'articolo. No, lo so, però il fatto, poiché il giornale non dice assolutamente che l'Espresso, forse allude quando dice un settimanale romano che dovrebbe occuparsi di altro e non di gossip. Però voglio dire che Imma Di Ninni è l'unica persona che ricordiamo, scusami Marco, ricordiamo agli ascoltatori che oggi il giornale, perché non tutti sono tenuti a sapere, naturalmente pubblica un'intervista a una tale Imma Di Ninni, vincitrice di un reality Mediaset. Il titolo è questo: mi hanno offerto 50.000 euro per gettare fango sul premier, l'attrice ospite di Villa Certosa, la proposta è un settimanale romano, sono sotto assedio, eccetera eccetera. Poi c'è tutta l'intervista di Francesco Kramer. Prima abbiamo chiesto a Stefano Zurlo ma di quale settimanale romano stiamo parlando, dell'Espresso, e lui ha detto mi sembra di sì, però non sono sicuro, mi sembra proprio di sì, ha insistito su questa prima pagina arriva dopo quella già fatta relativamente all'altra protagonista reality di cui abbiamo parlato prima. È chiaro che c'è un'allusione, c'è un'insinuazione. Allora io voglio dire che l'unico dell'Espresso che ha avuto contatti con la signora Imma Di Ninni sono io. Tutte le conversazioni con Imma Di Ninni sono state registrate, l'SMS che lei mi ha inviato poco prima che uscisse la precedente pagina, diciamo, del giornale sulla Laura Drezvica è anch'esso registrato. Per cui se qualcuno si azzarda a dire che l'Espresso ha proposto soldi in cambio di interviste, di qualsiasi genere di rivelazione, di cosa, di foto, da quello che vuole, la signora Imma Di Ninni andrà davanti al tribunale, ci andrà Stefano Zurlo, mi dispiace per lui, il giornale. Ora voglio tornare all'intervista di Zurlo, sì. Mi dispiace perché ritengo sia anche un collega, diciamo, che probabilmente è stato ingannato in questa vicenda, però è veramente imbarazzante quello che lui ha detto. Lui sostanzialmente dice: io ho ricevuto un nastro, mi hanno dato questa cosa, io ho scritto l'articolo, poi sarà la ragazza eventualmente a vedersela per come è andato quello che è accaduto prima. Allora io vorrei ricordare che il dovere di un giornalista è raccontare la verità, non è riportare quello che c'è in un nastro che gli viene recapitato al giornale. Perché l'intervista a questa ragazza da chi è stata realizzata, ricordiamolo. No, dunque nessuno ha realizzato nessuna intervista. Quello che è accaduto è molto semplice. L'Espresso ha ricevuto una telefonata. No, l'intervista del giornale, dico. L'intervista del giornale. La ragazza è stata contattata successivamente. No, a parte l'intervista. No, Zurlo ha raccontato sostanzialmente: io ho ricevuto un nastro, mi pare di aver capito, una cassetta, non so cosa. E poi ho parlato con questa ragazza, ma si comprende che lui ha fatto l'articolo sulla base di questo nastro che gli è stato recapitato sul tavolo e gli ha scritto. E non sa nulla, evidentemente, io mi auguro per lui, perché altrimenti non avrebbe scritto un articolo come quello, di quello che è accaduto prima. Allora, quando uno racconta la verità la deve raccontare tutta, e ormai che Zurlo ha appreso dal sito dell'Espresso e anche da Repubblica quello che è accaduto, dovrebbe completare questa verità e capire che ha raccontato una falsità, perché una mezza verità in questo caso diventa una falsità totale. Allora, il punto è questo. Noi abbiamo ricevuto una telefonata da parte di un'agenzia fotogiornalistica accreditata che fattura 3 milioni di euro di Milano, che si chiama Unopress. Sì. Questa agenzia ci ha proposto di incontrare una ragazza, che poi dopo abbiamo scoperto essere Laura Drezvica, protagonista del Grande Fratello 9, la quale aveva da fare rivelazioni sulla sua relazione sentimentale col presidente Berlusconi. A questo punto, immediatamente Roberta Arrigoni, titolare di questa Unopress, ha chiesto l'Espresso è intenzionato a pagare per un'intervista, e immediatamente nella prima telefonata abbiamo risposto no, non siamo intenzionati a pagare. Essendo un'agenzia fotografica, le abbiamo chiesto se ci sono foto. Lei ha detto sì, c'è una foto imbarazzante per il presidente, effettivamente una foto che ho visto sul telefonino. Ha detto guardi, la foto è un altro discorso, voi siete un'agenzia fotografica, vediamo questa foto, basta. A quel punto siamo andati a Napoli. La cosa interessante di questa storia è che noi siamo stati invitati dall'agenzia fotogiornalistica nell'appuntamento con questa ragazza nello stesso ristorante dove il giorno prima era accaduta un'altra trappola nei confronti del fidanzato di Noemi. Esattamente lo stesso tavolo, lo stesso ristorante, la Scialuppa di Napoli. Ora, in sostanza, cosa è accaduto? È accaduto che un gruppo di persone, evidentemente collegata al giornale, evidentemente molto strettamente collegata a Berlusconi, dopo l'uscita dell'articolo di Repubblica nel quale il fidanzato di Noemi rivelava la verità sul rapporto tra presidente Berlusconi e Noemi, sì, che non è assolutamente stato mediato dai... La sua verità, la verità del fidanzato di Noemi. Beh, diciamo, poi è stata riconosciuta, mi pare, anche dall'altra parte. Diciamo, tutto quello che avevamo letto fino a quel momento è stato ribaltato da questa intervista. La tesi da dimostrare per smontare questa intervista era: Repubblica paga, il gruppo Repubblica L'Espresso paga per le rivelazioni. Cosa hanno fatto? Hanno allestito un set fotografico, immagino con microspie, telecamere nascoste, lì in questo ristorante La Scialuppa di Napoli. Vi hanno attirato il giorno prima questo ragazzo, sì, e gli hanno, dopo aver chiesto disperatamente se Repubblica ha pagato, e questo ha detto no, Repubblica non mi ha pagato assolutamente nulla per quello che ho rivelato, sì, perché la verità la ripeterei, gli hanno messo in mano 500 euro e si sono fatti fotografare mentre lo davano, in modo da poter insinuare il dubbio che quello che era stato rivelato era falso in quanto indotto da soldi. Ma chi avrebbe architettato tutto? Chi avrebbe architettato tutto questo? Allora, io metto in fila tre fatti. L'intervista al ragazzo, a Gino, è firmata dal povero Stefano Zullo, che mi voglio ancora augurare che sia una vittima innocente, ma comincio a pensare che se è vittima innocente non deve essere molto, molto acuto nell'analizzare le cose che gli accadono sotto il naso, perché il giorno prima firma questo pezzo lui e Gabriele Parpiglia, che è un giornalista di Chi? Sì. Il giorno dopo, la trappola a noi, stesso ristorante, stesso posto, viene organizzata invece da un'agenzia che si chiama Unopress, che ha come amministratore il miglior amico di Alfonso Signorini, sempre di Chi? Chi è che ha elaborato tutte le fotografie, le storie, fasulle fino al midollo, nelle quali si spiegava qual era il rapporto tra la famiglia, Letizia, queste foto abbracciate, il nuovo ragazzo tronista che poi si è scoperto essere, diciamo, stato appiccicato. Sono state pubblicate su Chi? Da chi? Allora voglio dire questo. Tu parli esplicitamente di due trappole, siccome parlai di due trappole, ancora oggi la copertina, la prima pagina del giornale che torna con questa bufala: mi hanno detto ti diamo 50.000 euro per infangare Silvio. Nuovamente si cerca di insinuare che il gruppo L'Espresso paghi le persone allora, paghi le persone per ottenere informazioni piccanti sul premio. Andiamo sul fatto che mi riguarda personalmente, diciamo, è chiaro, è evidente che nessuno ha pagato nulla e questo è chiaro, però vorrei anche sottolineare come si gioca con le parole. Il giornale esce, per quanto riguarda la storia di questa Laura Trezzevica che mi riguarda, con la notizia che L'Espresso fa una proposta, dice esattamente, L'Espresso propone alla ragazza del Grande Fratello, ecco qua, aspetti che lo prendo. No, ma ce l'ho anch'io. La proposta di due giornalisti dell'Espresso a Laura, concorrente del Grande Fratello. Non c'è stata nessuna proposta, c'è stata da parte sua, appena ci siamo seduti al ristorante, l'affermazione: io ho avuto una relazione, sono stato a letto con Berlusconi. Poi il racconto continuava con queste parole: mi ha segnalata per, diciamo, arrivare al presidente Emilio Fede, grazie al canale dei book fotografici, e quindi ricalcava in qualche modo il canale di Noemi. Ora però, scusa un attimo Marco. A questo punto noi siamo stati costretti in qualche modo, visto che lei affermava tutto questo e chiedeva i soldi, noi abbiamo detto non ti diamo un euro per l'intervista. Sì. Abbiamo fatto delle domande che non erano un'intervista, ma erano delle domande fatte a una fonte per verificare se quello che lei stava dicendo era falso o vero. Tutte quelle domande che Zullo ricordava sul senso si concludono, dopo che io le pongo alla Trezzevica, e non è che mi interessa sapere se il Presidente del Consiglio si fa le punte. Aspetti un attimo, concludo, e dopo tre minuti di queste domande, che fanno in un'ora di conversazione sono nemmeno tre minuti, dico chiaramente, sia chiaro, noi non scriveremo una riga su tutto quello che vi abbiamo chiesto finora, non ci interessa nulla fare un'intervista sul sesso, noi vi abbiamo fatto queste domande soltanto per sapere se questa persona, quando dice non sono a letto con Berlusconi, è credibile o meno. A noi interessa soltanto l'aspetto del conflitto di interessi determinato dal fatto che Berlusconi si è fatto cioè parte attiva nel raccomandare una ragazza al Grande Fratello, ne ha determinato le sorti, i successi e l'ha diciamo contattata mediante Emilio Fede. Okay, e questa è la storia che ci interessa. Basta. Cioè tutte quelle domande elencate nell'articolo del giornale, hai visto cose che faceva con la Carfagna, con la Matera, se io ripetevo cose gravi del Premier devo essere sicuro, e quella storia delle punture che si fa alla base del pub, sono state fatte non per eventualmente un'intervista eccetera eccetera per riportarle, ma per verificare... Lo dico, se loro la pubblicassero, la parte, quella parte sessuale, chiamiamola così, si compie per due volte, prima lì e poi lo ripeto al telefono alla ragazza subito dopo quando la richiamo, perché era lei la mia interlocutrice, l'agenzia fotogiornalistica non era certo la ragazza del Grande Fratello la mia interlocutrice, io spiego a lei, a noi, di tutta quella parte che lei mi ha raccontato, che gli regalava i gioielli, l'appartamento, a me interessa tutto questo per riscontrare la sua relazione, ma a me la notizia è che questa ragazza è stata piazzata dal Presidente del Consiglio, che invece di occuparsi di altro pensa ai reality, e piazzate in un reality, e che la però la domanda è questa: è vero o no, come scrive il giornale, che sono stati offerti soldi per avere non solo foto ma anche prove come sms, foto, regali eccetera eccetera, sono stati offerti questi soldi? La ragazza è stato fatto questo ragionamento, non è mai stata fatta un'offerta. Quando lei diceva io voglio 50.000 euro, gli è stato detto non se ne parla. D'accordo. Gli è detto soltanto noi possiamo valutare da sempre, come io ho fatto un discorso, le ho fatto un discorso generale, ho detto l'Espresso da sempre valuta documenti, fotografie che preesistono all'intervista. Io gli ho spiegato. Sì, però al di là delle cose che preesistono o non preesistono, lì il giornale fa un'affermazione ben precisa. Poi devo mandare la borsa e torno con lei. Sono stati offerti soldi per avere prove come fotografie, sms, regali fatti da Berlusconi per dimostrare il fatto che esisteva questa relazione. Sono stati offerti questi soldi. Restiamo con questa domanda. Ancora qualche istante con Marco Lillo dell'Espresso. Noi per carità non vogliamo fare processi, non l'abbiamo fatti nemmeno prima con Stefano Zullo, tantomeno lo vogliamo fare con un altro collega come Marco Lillo, non è questo il caso. Ci sono due questioni poste dal giornale in risposta ad un'inchiesta giornalistica di Repubblica e dell'Espresso in questo caso, che sono quelle dell'offerta di somme, sono cose molto gravi e vanno chiarite, offerte di soldi per avere prove, sms, regali, foto, e questo va chiarito, e poi anche il fatto che secondo il giornale sarebbero state contattate, l'ha scritto anche il suo direttore Giordano, sarebbero state contattate decine di persone in questi giorni per cercare, anche questo fa parte di un lavoro giornalistico oppure un'esagerazione, forse questa è una domanda più filosofica, per cercare diciamo prove o altro su relazioni possibili con il Premier. Prego Lillo. Le faccio un esempio di queste persone contattate. Una delle persone che ho contattato io personalmente è proprio Imma Di Ninni, no? Imma Di Ninni è una ragazza che ha partecipato alla festa di Capodanno del 2007 a Villa Certosa. Questa cosa non è stata mai scritta da nessuno finché non l'abbiamo scritta noi, ed è il risultato di una verifica effettuata con altre ragazze che ci hanno raccontato che lei era lì, e dopo che lei ce l'ha negato siamo arrivati a farcelo confermare. Ora, improvvisamente Imma Di Ninni oggi esce sul giornale con questa intervista. Altro esempio di ragazza contattata da me, Evelina Manna, una ragazza che secondo i giudici, i pubblici ministeri, ha avuto una amicizia intima con il Presidente del Consiglio Berlusconi, e dopo aver testimoniato in un procedimento penale a carico di Silvio Berlusconi a Roma, pochi mesi dopo ha acquistato un appartamento da 1 milione di euro. Io ho contattato ripetutamente questa ragazza per chiederle appunto la natura di questa relazione con il Presidente, e poi gli ho chiesto con quali soldi aveva acquistato questo appartamento. Questo è il tipo di lavoro che fa la stampa in tutti i paesi del mondo. Quando un testimone parla di una persona e a verbale dice preferisco non rivelare il contenuto della mia amicizia con il Presidente Berlusconi, e poi dopo pochi mesi acquista un appartamento da 1 milione di euro, un giornalista serio la chiama. Vabbè, questa qua è la risposta diciamo alla seconda domanda. Sulla prima invece, se vuole rispondere. Allora, sui soldi offerti per sms devo ricordare il contesto. C'è una persona che dice io sono stata l'amante del Presidente del Consiglio, lui mi ha pagato gioielli, appartamento e quant'altro, mi ha inserito nel casting, abbiamo già detto prima. A questo punto io le chiedo, tu hai le prove di tutto questo? Sì, certo, io ho i contratti, ho tutto, e voglio fare così, voglio prima vendere a voi l'intervista, poi vendere una seconda battuta i documenti, poi in terza battuta vendere anche le foto a tre giornali diversi per massimizzare il risultato. E era, io ritengo mio dovere chiederle, mi mostri questi documenti, vediamoli e poi discutiamo. Questo è quello che ho fatto io. Ritengo di aver fatto il mio dovere di giornalista, pensando di essere in un paese in cui non può accadere che un'agenzia fotogiornalistica seria organizzi insieme a una concorrente del Grande Fratello una trappola in cui si diffondono notizie false sul Presidente del Consiglio. Tengo a precisare che noi nei giorni successivi avremmo potuto scriverle queste notizie. Cioè nessuno ci ha detto, fino a che non è uscito il giornale, che queste notizie erano bubole. Cioè qui si è organizzata una trappola che riguardava notizie tendenziose, pericolose addirittura per la sicurezza nazionale. Cioè mi metto dalla parte di Berlusconi in questo momento. Se io il giorno dopo avessi dato credito a questa storia senza verificarla, come giustamente stavamo facendo, avremmo potuto scrivere il Presidente del Consiglio a un amante, l'ha inserita nel Grande Fratello, e questo l'avremmo fatto. Dunque non si è arrivati nemmeno, ho capito benissimo, non si è arrivati nemmeno a trattare, diciamo, dei soldi per queste cose. No, assolutamente no, non c'è una sola traccia in quella registrazione che loro hanno e noi anche abbiamo fortunatamente, nella quale io faccio una cifra o faccio una proposta, dico fammi vedere. Cosa hai? Fammi vedere. Quando anche il giornale ci accusa di aver voluto sbirciare gli sms del Presidente, era perché quello era funzionale alla domanda. Scusa, mi spieghi una cosa, tu sostieni di aver avuto un rapporto, una relazione con Silvio Berlusconi. Com'è possibile che dopo tutto quello che lui ti ha dato tu sei così ingrata da venirti a vendere il Presidente qua per 50.000 euro? A questo lei diceva di essere stata trascurata, e noi facciamo domande su questa relazione, cioè c'hai documenti, c'hai prove di questo aspetto? Allora, voglio dire, è chiaro che non è piacevole fare queste domande, ma è anche chiaro che tutto questo non sarebbe uscito sul giornale. Sa quante domande abbiamo fatto che non sono mai uscite le risposte sul giornale? No, immagino. E anche, come posso dire, e il fango lo tocchiamo prima di scrivere il giornale, ma quando si scrive il giornale quello che esce è un distillato, non è certamente quello che c'è tutto dietro. Ho capito. Grazie a Marco Lillo. Abbiamo sentito sia Stefano Azzurro che Marco Lillo sulla vicenda che rappresenta una parte importante di quello che sta avvenendo, che è anche una guerra mediatica, io l'ho chiamata così. 20:39, 800 24 00 24, Alberto da Milano. Buonasera. Dica. Senta, io trovo che Sodoma e Gomorra era un paradiso felice. Una notizia interessante che viene dalla Spagna. Mentre a Madrid infuria la polemica per l'uso inappropriato, secondo l'opposizione, degli aerei blu da parte dell'attuale presidente del governo spagnolo, oggi si è appreso che la regina Sofia ha usato la compagnia a basso costo Ryanair per spostarsi da Londra a Santander questo fine settimana, pagando un biglietto da 15 euro. Questo la regina di Spagna, che viaggia in low cost Londra-Santander ritorno con Ryanair. Ha capito Alberto? Ok, sì, posso dire una cosa? Sì, dica. Allora faccio una domanda. Dunque in Italia ci sono 150 o 200 mila auto blu che ci costano 12 miliardi di euro all'anno. Questo è scritto sul Corriere della Sera, di cui ho l'articolo. Ma siamo sì, nessun giornalista, fotografo è andato a fotografare quelli che usano questi auto blu per andare in vacanza, in ferie, e ci costano 12 miliardi di euro, 12 miliardi di euro all'anno, ci rendiamo conto di cosa abbiamo davanti? Ma siamo matti? E stiamo a parlare di queste... Sì, Alberto, devo dire la verità, che sull'uso e sul numero dell'auto blu in Italia ci sono un sacco di leggende, per carità, andrebbero sfoltite, però insomma c'è un po' di leggenda. Interventi più brevi perché ci abbiamo verso la conclusione. Giacomo da Firenze, prego. Buonasera, dottor Cruciani, spero che non mi snobbi, perché è accaduto in altre occasioni. Comunque, io ho insegnato in Abruzzo e ho alcuni cari amici. Sì. Voglio dire questo, mi dispiace molto che il governo ha trasformato la tragedia dell'Aquila in una grande piattaforma mediatica. In che senso? Nel senso che porta lì i corridori ciclisti, quelli della Formula 1, organizza anche la cerimonia. Il G8. G8. Però Giacomo, guardi, se tutto è indirizzato ad una maggiore attenzione nei confronti dei terremotati, insomma, se poi non si molla dal punto di vista della concretezza, queste cose in realtà non sono così negative. Importante è che non ci si limiti, ecco, alle parate, insomma, alle sfilate. Leo da Bologna, buonasera. Buonasera. Io volevo rispondere alla radioascoltatrice di prima, di Lodi, la ragazza che diceva della vita privata di Berlusconi, così. Io mi faccio una semplice domanda che penso che facciano tutti gli italiani: ma se una qualsiasi persona fa una festa in una villa un capodanno con 40 ragazze, che male fa, al di là che sia Presidente del Consiglio? Visto che non è stato provato niente, fino a prova contraria, volevo chiedere che male faceva. No, ma infatti il punto non è questo. Oggi si parla in realtà di un'altra cosa, e allora io le giro questa domanda, Leo. È normale o no, è giusto o no che negli aerei di Stato salgano anche amici, parenti, in questo caso attori, cantanti, eccetera? Non è giusto questa cosa, ma va fino a prova contraria, andrebbe dimostrata. E poi dimostrata è dimostrata, che ci sia una cantante di flamenco, una danzatrice di flamenco, quello che è, un Mariana Picella, che più volte ha preso l'aereo di Stato insieme a Berlusconi, questo è fuori di dubbio. Certo, ma se l'aereo di Stato del signore, il presidente del Consiglio Berlusconi... Insieme a Berlusconi, per carità. Certo, l'ha preso insieme a Berlusconi, sì, quindi non è stato preso... No, ma quello sarebbe più grave, naturalmente, un aereo di Stato riservato alla Picella, abbia pazienza, questo... insomma, anche in Italia questo verrebbe sanzionato in maniera piuttosto pesante. Però rimane il punto, su questi aerei ci possono salire tutti oppure no? Secondo me, dal momento che l'aereo, tanto comunque quel viaggio lo deve fare. Ho capito, però lei si immagina un aereo di Stato in cui c'è Berlusconi insieme, che ne so, a 15 persone che sono suoi parenti, che vanno in Sardegna per passare fine settimana, parenti o amici. Insomma, voglio dire, qualche problema magari ogni tanto c'è o no? Ma sicuramente qualche problema bisognerà fare una... Cioè, una cantante di flamenco, una... Cioè una danzatrice di flamenco che scende dall'aereo presidenziale perché deve andare non so a che fare a Villa Certosa, qualche problema d'immagine lo può suscitare o no? Qualche interrogativo su chi sale su quest'aereo di Stato senza fare demagogia? Sicuramente, ma come cioè, anche negli Stati Uniti il presidente Obama è stato sottoposto a dure critiche da parte dei repubblicani per utilizzo di un aereo di Stato perché voleva portare la moglie a Broadway. Sono andati a Broadway l'altro giorno, ci sono critiche anche sui giornali americani su questo, discussioni, aereo di Stato per andare a uno spettacolo a Broadway, in Italia sarebbe successo l'inferno. Lo fa il presidente Obama, un'icona ormai nel mondo. Certo, no, sicuramente, però non va neanche strumentalizzato per farne un campagna elettorale, che è quello che sta facendo la sinistra in Italia. Vabbè, ma quello è un altro discorso, lei non faccia campagna elettorale pure lei. Quello l'abbiamo detto più volte, che il Partito Democratico secondo me sta esagerando da questo punto di vista. La ringrazio, Beniamino da Reggio Calabria. Pronto? Buonasera, dica. Niente, io onestamente volevo parlare per quanto riguarda i rimborsi gonfiati, si parlava dell'Inghilterra e cose. Io penso che, ad esempio, in questo momento di grande crisi economica, di grande difficoltà, io sono un giovane del sud, vedere comunque che ci sono politici o comunque c'è la politica che fa questi gesti, voglio dire, di gonfiare i rimborsi, sicuramente non è bello. Io però volevo puntare l'attenzione sul populismo, che si rischia di far passare un messaggio che secondo me non è... No, però mi scusi, io devo chiudere oggi, Beniamino, perché sennò mi bacchettano con i ritardi. Non è che si tratta di populismo o di demagogia quando si dice che magari sull'aereo presidenziale non ci possono andare nani e ballerine, tanto per capirci. Ci sentiamo domani, 18:30, ciao.